9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Sono particolarmente contento perché finalmente, dopo aver tanto parlato di nomi, tante chiacchiere sulla formazione del governo, tante discussioni sul Presidente della Repubblica con tutti gli psicodrammi ai quali abbiamo assistito, finalmente si arriva a parlare di cose concrete, anche se queste cose concrete suscitano qualche dubbio. Ci riferiamo a quella che per il momento è una sospensione dell'IVA sulla prima casa, della rata IMU sulla prima casa, e che potrebbe diventare un'abolizione, almeno nelle intenzioni apparenti del governo che ieri ha ottenuto la fiducia alla Camera, e sicuramente nelle intenzioni di una componente fondamentale della maggioranza, che è il Popolo della Libertà. Più avanti stiamo cercando di raggiungere, tra poco arriverà Alberto Giorgetti del PDL, che è un ex sottosegretario all'economia, e ci spiegherà la ratio di quest'ipotesi, perché al momento in apertura ospiteremo un paio di opinioni contrarie. Innanzitutto vi segnalo che potete scriverci sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/9in.radio24. Anche qua vedo molte perplessità. Silvia Bonetti ci dice: assolutamente coperta, la coperta va tirata, coperta che è stretta come sempre, va tirata verso l'abolizione IRAP e tasse sul lavoro, l'abolizione IMU è tutta fuffa. Simon Tassone: possono anche lasciare l'IMU, perché se poi sulla busta paga ci spremono come arance non servirebbe toglierla. David, un'opinione lievemente diversa: l'IMU è una disponibilità immediata che comunque serve, ma se non facciamo ripartire i consumi, assunzioni, aziende che tornano a lavorare, l'IMU è una toppa di plastica su una barca squarciata. Queste alcune delle opinioni, ne aspettiamo e ne accogliamo volentieri anche di contrari, anche di chi è favorevole invece all'abolizione di questa tassa sulla prima casa, anche all'800 24 00 24. Stefano Feltri del Fatto Quotidiano, buongiorno. Buongiorno. E buongiorno a Carlo Stagnaro, direttore ricerca e studi all'Istituto Bruno Leoni, buongiorno. Buongiorno. Stagnaro, inizierei da lei. L'altro giorno ha scritto un pezzo per il Foglio che le è valso qualche critica, forse più di qualche critica, proprio dicendo che secondo lei l'IMU sulla prima casa in realtà non va abolita. Perché? Ma certo non in assoluto, nel senso che chiaramente a nessuno di noi fa piacere pagare una tassa. Il punto è che le risorse sono scarse e limitate per definizione. Noi non abbiamo a disposizione 100, 200 o 300 miliardi di euro da investire in riduzione del prelievo fiscale. Possiamo contare su pochi miliardi di euro nella migliore delle ipotesi. Quindi è cruciale scegliere il modo migliore per utilizzare questi pochi miliardi di euro. Abolire l'IMU sulla prima casa richiede circa 4 miliardi di euro. Con la stessa cifra si potrebbe rendere parzialmente deducibile, o con poco più si potrebbe rendere totalmente deducibile, il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP. Il mio punto è semplicemente questo: il nostro obiettivo di politica economica in primo luogo deve essere la riduzione delle imposte per favorire la crescita, e in questa prospettiva un'imposta vale l'altra, ma in secondo luogo deve essere la riduzione o il taglio delle imposte che più ostacolano la crescita economica. Se noi guardiamo la composizione del sistema tributario italiano nel rapporto con quelle di altri paesi, vediamo che il prelievo sugli immobili è, adesso che c'è l'IMU, comparabile, mentre prima era inferiore, ma vediamo allo stesso modo che la tassazione sul lavoro è tra le più alte in Europa, se non la più alta in Europa, e la tassazione sul reddito d'impresa è tra le più alte dei paesi OCSE ed Europa, se non la più alta in assoluto. Ecco, di fronte a questi dati e di fronte a una disoccupazione che raggiunge livelli record e alla quale va aggiunto ovviamente tutte le persone che sono in cassa integrazione e così via, a me pare, potendo contare su 4, 5, 6, 2, 3 miliardi di euro, pare irresponsabile utilizzarli per intervenire sull'IMU piuttosto che utilizzarli per ritoccare l'IRAP o altre forme di prelievo sul reddito da lavoro o da impresa, che avrebbero conseguenze pro crescita incomparabili con quelle appunto dell'intervento sull'IMU. Vi ricordo anche che mi potete scrivere anche su Twitter, se volete, Simone Spezia, mi trovate, oltre che, ripeto ancora una volta, sulla nostra pagina Facebook, oppure chiamare l'800 24 00 24. Stefano Feltri, invece, oggi nel suo pezzo sul Fatto Quotidiano fa un'operazione interessante, che ho trovato in prima pagina, perché cita, a proposito dell'abolizione IMU sulla prima casa, uno studio di NENS, centro studi, non so, non mi ricordo se è fondato comunque con che ha come elemento centrale Vincenzo Visco, l'ex ministro delle finanze che ben ricordate, tra l'altro uno studio firmato da Antonio Misiani, che è il tesoriere del Partito Democratico, nonché deputato del PD che attualmente sostiene questo governo. Che cosa c'è in questo studio, Stefano? Ma c'è la dimostrazione che quello che ha annunciato Letta ieri non era necessario, nel senso che presentare il 20% più povero degli italiani che paga l'IMU da questa imposta, che per loro è oggettivamente un problema, basterebbero intorno ai 400 milioni di euro, perché l'IMU è un'imposta che è abbastanza progressiva, quindi chi ha immobili, chi ha una prima casa molto di pregio, paga molto di più in proporzione rispetto a chi ha una casa piccola. Quindi se lo scopo è aiutare chi ha un bene di valore ma un reddito basso, si poteva intervenire, e quindi verosimilmente abita in un immobile non particolarmente pregiato, si poteva intervenire con poca spesa. Fatta in questo modo, cioè addirittura posticipando il problema, cioè intanto bloccando, poi ci pensiamo e vediamo come ristrutturarle, eccetera, è proprio l'approccio, come dire, berlusconiano al tema, cioè via l'IMU perché ve l'ho promesso, al di là di qualunque ragionamento di, come dire, sia di equità che di politica economica, perché come diceva Stagnaro c'erano modi più intelligenti di usare quei soldi, ma forse c'erano anche modi più equi di questo. Stagnaro, e però, una mano, le mani su questa tassa vanno messe in qualche modo, come ricorda oggi bene il Sole 24 Ore in un pezzo di Salvatore Padula, questa IMU, per come è stata congegnata, è una tassa che presenta infinite distorsioni, no? A partire dal sistema di valori catastali, come ovvio, però insomma, quella probabilmente è un'altra questione esterna ma relativa all'IMU, però insomma le distorsioni ci sono, anche il peso che ha l'IMU in questo caso non sulla casa ma sulle imprese. Ma sì, non c'è dubbio che in questo senso si ricade in quanto dicevo prima. Il problema del sistema fiscale italiano è che grava troppo su imprese e lavoro. Il fatto che vengano pesantemente tassati gli immobili strumentali delle imprese è senza dubbio un elemento negativo, e paradossalmente se si dicesse ok, rimoduliamo quella parte dell'IMU si potrebbe perfino essere d'accordo. Quello che a me pare così un po' naif, un po', come dire, comprensibile in una dinamica elettorale ma meno comprensibile in un frangente come quello attuale, è l'insistenza sull'IMU sulla prima casa, sul quale mi permetta di aggiungere una chiosa a quello che diceva, e sono d'accordo, Stefano Feltri poco fa. In nessun paese al mondo e in nessun senso del termine una persona che abbia un basso reddito ma un immobile di pregio è considerato un povero. Il povero è chi ha basso reddito o nessun reddito e non ha immobile né di pregio né senza pregio. Uno che ha un immobile di pregio non è povero. Anche se ci scrive qualche ascoltatore, mi scrive su Twitter, è comunque un furto, non è detto che se hai immobili hai contanti, spesso dice non riesci neppure a fare le manutenzioni, ma verremo su questo. Vi voglio anche segnalare, ripeto ancora una volta, giusto per chiarezza, non stiamo facendo una trasmissione a senso unico, tra poco ospiteremo anche l'opinione di chi invece è convinto che l'IMU sulla prima casa vada tolta. Sentiamo Giuseppe da Pavia, buongiorno. Buongiorno, io sono dell'idea che qui vanno tolte tutte le tasse, perché quei signori che ci sono lì non hanno capito ancora niente. Siamo oltre il 70% di tassazione, se uno sa fare i conti. Chiaramente non lo dice nessuno, ma facciamo un piccolo esempio di un salariato. Il 50% dello stipendio glielo portano via subito, neanche lo vede. Il rimanente 50% che gli arriva in busta paga è ancora aggravato di almeno il 21% di IVA, più una serie di altri balzelli, non parliamo se per caso compra benzina, dove c'è il 250% di tasse. quindi siamo oltre il 70%, qui vanno eliminate tutte le tasse possibili e lo Stato non deve macinare alcunché di soldi, perché quando ne prende 100, se va bene ne distribuisce 20, 80 si perdono nei vari meandri, meno fa, meglio è. L'ultimo governo ha distrutto le poche energie che avevamo ancora. Signori, la macchina è ferma, non riparte, sarà durissima, siete fuori come dei balconi, non avete ancora capito un cazzo. Grazie Giuseppe anche per questa conclusione, per così dire, colorita. Ci scrive invece Vito su Twitter: l'IMU è un elemento odioso che ha di fatto bloccato il mercato della casa. Ancora Paolo su Facebook invece: tassare i guadagni è ben diverso che tassare la proprietà, la seconda si applica anche ai disoccupati. Stefano Feltri, hai sentito il nostro ascoltatore, hai sentito che cosa ci scrivono, perché poi c'è anche quell'elemento, l'elemento di blocco sostanziale del mercato immobiliare e anche di un certo peso naturalmente sull'edilizia. Sì, la cosa non mi inquieta particolarmente, uno deve scegliere, cioè in politica bisogna scegliere delle priorità, la nostra priorità è far ripartire il mercato immobiliare che ha valori come dire esagerati, nel senso che sono appunto distaccati da quelli degli affitti e che appunto dall'inizio della crisi è sceso più di molti altri mercati europei, non certo soltanto per colpa dell'IMU, ma perché i prezzi erano gonfiati, perché in questo paese c'è una distorsione mentale che spinge a preferire l'investimento negli immobili a qualunque altro tipo di investimento produttivo, anche con una qualche ragione, forse perché magari appunto in Italia ha poco senso investire sulla propria istruzione per pagarsi un master ed è meglio per un padre comprare un piccolo appartamento al figlio perché appunto il mattone è meglio, ma io sarà anche per questioni generazionali, io sono meno di 30 anni, coi prezzi prima dell'IMU non mi sarei mai potuto comprare una casa, adesso i prezzi stavano scendendo per l'IMU, stavano scendendo gli affitti, che in un clima di recessione in cui la gente ha pochi soldi in tasca era un altro modo per recuperare potere d'acquisto. In realtà non è detto che se i prezzi scendono in un settore sia per forza un male per l'intera società, è un male forse per chi doveva affittare un appartamento, adesso invece stava decidendo di venderlo e magari quei soldi li avrebbe poi investiti per esempio in titoli di Stato italiani, quindi come dire, chi ha una casa può, o chi ha appunto, chi pensa solo al proprio portafoglio può anche fare le analisi diciamo poco raffinate del nostro ascoltatore di prima, per cui aboliamo tutte le tasse e via politici ladri eccetera. Chi deve fare le regole, chi deve guardare la società nel suo insieme deve considerare anche gli effetti complessivi delle politiche, per cui se appunto se spostando soldi dal risparmio verso gli immobili vanno a finire nei BTP Italia facendo risparmiare poi spesa sugli interessi ed emancipandoci dalla dittatura dei mercati, se io sono un politico forse devo considerare anche questo aspetto, se sono un demagogo populista invece ascolto soltanto le persone che urlano via le tasse, politici ladri, veniamo coi forconi. Un paio di messaggi che ci arrivano, ci scrivono: siamo un paese strano, ogni volta che si toglie una tassa non troviamo mai la quadra, basta tasse. E poi ci scrive Alexander: l'IMU prima casa la tolgono, ma che stecca ci arriverà sulla seconda? Anche questa potrebbe essere una buona domanda. La disperazione di Federico Punzi rischia di essere il solito approccio accademico molto chiusi, che alla fine non avremo nemmeno IMU, nemmeno tasse sul lavoro. Roberta dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Io penso da parte mia che sia un provvedimento vecchio fatto da vecchi per vecchi, cioè adesso è un po' provocatoria questa cosa. Ma vecchio perché comunque, vabbè, hanno tolto l'ICI, hanno tolto l'ICI, hanno messo l'IMU, tolgono l'IMU, ci mettono qualcos'altro e quindi trovo che sia un'idea vecchia, che comunque, diciamo, in realtà viene fatta da persone, cioè, come dire, questa ICI e questa IMU serve a finanziare i servizi dei comuni, quindi togliamo l'ICI, togliamo l'IMU, e i servizi chi li finanzia? Quindi mi sembra più che altro un intervento, un provvedimento populista, fatto semplicemente per dimostrare qualcosa. Allora, se volevano dimostrare qualcosa e dire cos'era questo governo, potevano tagliarsi gli stipendi, in fondo non avrebbe risolto nulla, perché a livello di effetti non... in effetti no. Però se volevano fare una dimostrazione di quello che era una dimostrazione programmatica di quello che voleva essere il loro inizio di governo, secondo me avrebbe avuto più senso. È fatto da vecchi, nel senso che è un vecchio modo di ragionare, di fare politica. Dobbiamo qualcosa che poi tanto dovremo, cioè questi soldi li dovremo rimettere, no? In qualche altro modo. Quindi mi sembra un po' un provvedimento inutile. Grazie Roberta della provincia di Milano. Voglio sottolineare quello che diceva Stefano Feltri, che è un tema che, se ricorderete, abbiamo affrontato anche in questa trasmissione, quando vi abbiamo raccontato del libro. Abbiamo incontrato Antonio Polito per parlare del suo libro Contro i padri, un libro che mi sento sempre di consigliare, nel quale raccontava di questo studio realizzato dalla pur odiatissima Elsa Fornero, nella quale si diceva, odiatissima da molti dico, non è una valutazione personale, nella quale si diceva che può darsi che molto del basso livello di istruzione degli italiani dipenda esattamente dal fatto che gli italiani hanno preferito comprare casa piuttosto che spendere nell'istruzione dei figli, fatto che avviene invece in altri paesi come per esempio la Gran Bretagna o gli Stati Uniti. Questo è un tema che potrebbe portarci anche ad un'altra trasmissione prima o poi, perché questo tema dell'istruzione, della crescita del capitale umano è centrale, no, nella vita del paese, e la scarsa preparazione, insomma lo scarso livello di istruzione che si verifica in molti ambiti della società italiana, la scarsa formazione, ha secondo me un collegamento diretto sulle condizioni nelle quali è il paese. 9 in punto. Sentiamo qualche altro ascoltatore. Michele da Bologna, buongiorno. Pronto, buongiorno dottor Spiezia, grazie di avermi richiamato. Dunque, io volevo intervenire per dire che secondo me nella questione dell'IMU c'è un po' il contrasto generazionale vecchi-giovani, nel senso che mi sembra che in Italia bisognerebbe premiare chi produce ricchezza, ecco, e quindi bisognerebbe abbassare le imposte su chi scommette sull'impresa, produce, lavora, insomma, ecco. Mentre la casa non è produttiva, però è il tipico investimento che una persona dopo una certa età fa per essere sicuro, e in questo senso secondo me c'è anche una contrapposizione, ma nel senso classico, fra progressisti e conservatori. L'Italia si è sempre sviluppata con la speculazione edilizia, col mattone, e dunque un conservatore dice vabbè, non la facciamo cambiare, teniamo le cose come sono e premiamo chi investe sul mattone e chi ha comprato la casa. Chi la vorrebbe cambiare naturalmente vorrebbe farle fare qualcosa che ancora non è, e allora dice no, premiamo dei due chi fa impresa, chi fa altre cose, e non la solita vecchia storia di chi magari fa la piccola speculazione edilizia, come diceva Scalvino negli anni 60. Ecco, secondo me è un po' questo il punto. Che cosa sono queste campane a festa che sentiamo di sottofondo, Michele? Sono in centro a Bologna che sto andando a lavorare. Grazie Michele, buona giornata. Alessandro da Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Io volevo dire questo. Premesso che la casa è un indice di capacità contributiva, non raccontiamoci barzellette. Uno che ha un appartamento in corso di Porta Romana qui a Milano è un signore che è, diciamo così, abbastanza abbiente. Fatto questa premessa, l'IMU sull'abitazione principale incide poco normalmente, non è un granché, quindi è sacrosanta l'IMU. Secondo me, tornando al discorso delle diletta ieri, è tutta fuffa, perché non vengono indicate minimamente, non dice assolutamente niente su quello che sono le fonti per poter abolire questa tassa, per poter diminuire, aumentare gli ammortizzatori, per fare un sacco di altre spese. Non viene indicato minimamente nulla, e questo si permette un indice di poca serietà, cioè lì mi sembra un banchetto tra commensali che si giocano un attimino, ma non è più il momento di giocare, è meglio che lasciano tutto fermo e vedono dove spendere meglio le cose. Grazie Alessandro. C'è un bel pezzo su questo, sempre sul Sole 24 Ore di oggi, a firma di Dino Pesole. L'incognita delle coperture: servono subito 15 miliardi, e da dove li tiriamo fuori, Carlo Stagnaro? Ma da dove li tiriamo fuori? Abbiamo l'imbarazzo della scelta, e su questo, come dire, ricollegandomi al primo ascoltatore che ha telefonato e che ci suggeriva che non avessimo capito un cazzo, magari c'è anche ragione, però, come dire, le spese vanno tagliate in misura di quanto uno riesce a tagliarle, è in grado di incidere sulle tasse, e in misura di quanto è in grado di incidere sulle tasse deve scegliere le imposte più utili da ridurre. Dove si possono prendere i soldi? La cosa più banale da dire è dai costi della politica, che non sono soltanto i doppi stipendi e queste cose qua, che sono iniziative utili sul piano simbolico, ma che in termini aggregati valgono poco. Costi della politica vuol dire, per esempio, l'abolizione, non la riduzione, l'abolizione delle province, che da sola vale circa 2 miliardi di euro l'anno. Vuol dire, come dire, una revisione di tutte le modalità di finanziamento dei vari enti e soggetti che hanno qualche ruolo decisionale più o meno politico, e vuol dire soprattutto ripensare completamente la partecipazione e il ruolo della politica nell'economia. Privatizzare le società pubbliche, a partire da quelle controllate a livello nazionale per poi scendere a livello locale, implica da un lato mettere in moto dei mercati, creare concorrenza e quindi ridurre anche il costo dei servizi pubblici, dall'altro vuol dire incamerare delle risorse che possono essere utilizzate per abbattere il debito pubblico, ben sapendo che ogni euro di minore debito pubblico implica 5 centesimi circa di minore spese per interessi. Quindi ridurre il debito distribuisce, per così dire, un doppio dividendo: meno debito e quindi più credibilità del paese, spread più basse e così via, e meno spesa corrente, perché si riduce la spesa per interessi e per il servizio al debito. Come avete sentito, stiamo virando un po' più in generale sul programma economico che a grandissime linee, a dire il vero, ha espresso ieri il Presidente del Consiglio Enrico Letta in Parlamento. Adesso sentiremo su questo anche Stefano Feltri. Nel frattempo, sempre sull'IMU, a conferma del ragionamento che ci faceva prima l'ascoltatrice da Milano, che diceva, insomma, forse e anche un altro ascoltatore ci diceva, insomma, guardate, può darsi che ci sia sotto anche una questione generazionale. Mi scrive David su Facebook: a me, che sono un neoccupato ancora lontano dall'avere una casa, a cosa serve questa cosa? A fare contenti mamma e papà? Quindi evidentemente c'è anche chiaramente un ragionamento di questo tipo. Stefano Feltri, dunque, abbiamo virato un po' più sul programma economico generale che, ripeto, a grandissime linee ha espresso ieri il Presidente del Consiglio Letta. Naturalmente forse non poteva essere diversamente in questa fase, anche perché, insomma, incarico rapido, formazione del governo rapida, fiducia molto rapida, adesso tocca mettere le mani nella palta, per così dire, no? Che cosa ti è sembrato? Ma è stato un bel discorso. Il problema è che è stato un po' troppo bello, nel senso che io lo sentivo e dicevo: ah, ci sono anche gli incentivi per i giovani, che bello, sgraverà le nuove assunzioni, via le tasse di qua, grande intervento di edilizia scolastica. Cioè, praticamente ha annunciato tutto quello che ogni componente, ogni subcorrente, ogni partitino della coalizione voleva sentirci dire. Ha detto tutto. È chiaro che non potrà rispettare quello che ha annunciato ieri. È un programma talmente vasto che, a confronto, l'agenda Monti era una piccola cosa. Cioè, secondo me quello che è stato un po' deludente nel discorso di Letta, che diciamo, conoscendolo anche, mi sarei aspettato uno sforzo maggiore in questo senso, era di chiarire bene quali erano le priorità. Lui non ce l'ha chiarito. Cioè, a parte che la priorità era congelare l'IMU, evitare l'aumento dell'IVA a luglio, che è appunto cosa che male non fa, ma forse si poteva fare qualcosa di più intelligente, lui non ha chiarito bene cosa vuole fare, nel senso che è condivisibile, forse anche adatto al momento, la visione di fondo, cioè di solo risanamento l'Italia muore, questo ci eravamo arrivati un po' tutti, e appunto bisogna sfruttare meglio i vincoli di bilancio, muoversi in maniera meno da ragionieri e più da politici, cercando di ottenere nelle pieghe dei vincoli europei degli interventi per la crescita. E qua siamo tutti d'accordo, anche perché adesso si può fare. Se Letta fosse stato lì un anno fa, senza anche la diplomazia di Monti a livello europeo, con un discorso come quello di ieri, lo spread sarebbe andato a 600 punti. Per fortuna è cambiato il clima, è cambiato il contesto, quindi si può finalmente dire questo tipo di cose. però non è che le risorse sono infinite, non è che la pazienza di Bruxelles è enorme. Cioè, traduco, non si può derogare al deficit per ridurre l'IMU, non ce lo faranno mai passare questo, quindi l'IMU andrà coperta con altre cose e poi si dovrà cercare di derogare al deficit per delle spese di investimenti, per esempio spese infrastrutturali, eccetera. Bruxelles non vuole le deroghe sul deficit neanche per pagare gli arretrati della pubblica amministrazione, almeno finora c'è stato detto che noi potevamo pagare quei primi 40 miliardi perché eravamo sotto la soglia del 3%, ma i paesi dell'asse del rigore hanno già detto che non è che possiamo considerare debiti commerciali nascosti sotto il tappeto come degli investimenti analoghi alla copertura della rete in banda larga in tutta Italia, per esempio. Quindi secondo me è mancato nel discorso di Letta una direzione chiara, cioè dire, non so, il rapporto dei saggi del Quirinale diceva il problema dell'Italia è che le tasse sul lavoro sono troppo alte e bisogna aiutare in primis i redditi bassi, ogni soldo che si recupera deve andare lì, e è una visione, come dire, si può discutere, però almeno è una visione chiara. Cosa voglia fare Letta invece io non ho ben capito. A proposito degli annunci di ieri, ha detto il Presidente del Consiglio che intende bloccare l'aumento dell'IVA che scatterà a luglio. Qualcuno stamattina mi ha chiesto se toglieremo il countdown all'aumento dell'IVA che abbiamo alla fine della trasmissione. No, guarda, lo terremo finché non vedremo un provvedimento. Franco da Napoli, che credo che voglia intervenire su quello che dicevo prima, insomma, la spesa per istruzione versus spesa per la casa. Franco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, complimenti a tutti. Allora, una cosa la volevo dire. Allora, due salariati, io e mia moglie, praticamente stipendio basso da 1000 euro, considero. Allora, io non ho comprato casa, c'ho un affitto, i figli hanno studiato, si sono laureati, sono disoccupati. Disoccupati, attenzione. E questo si mirava sui figli, era questo il discorso. Adesso mia moglie è in cassa integrazione. Dal mese di ottobre non ha visto un centesimo di cassa integrazione. Viviamo solo con il mio salario di 1000 euro. Allora, che cosa sta facendo il governo? Perché i soldi, dice l'IMU, le cose varie. A me l'IMU non interessa sicuramente. Mi interesserebbe sapere i soldi per la cassa integrazione che la Regione Campania non ha, e quindi c'è tanta gente, tantissima gente, glielo posso garantire, anche i colleghi di mia moglie, che non riescono a prendere la cassa integrazione dal mese di ottobre. È una risposta del governo. Qual è? Questa è un'altra questione centrale, ne abbiamo trattato tra l'altro nelle settimane scorse anche in questa trasmissione, cioè la questione del rifinanziamento della cassa integrazione in deroga che insomma in qualche modo deve arrivare. Io immagino che ci metteranno mano, perché quella è chiaramente, è evidentemente un'emergenza e un'urgenza. Alberto dalla provincia di Modena, buongiorno. Salve, grazie per l'opportunità. Io volevo intervenire perché ho sentito parlare del governo dei tagli dell'IMU, dei tagli forse anche, speriamo, dell'IVA, però volevo sapere se le risorse finanziarie ci sono e dove vengono trovate. Soprattutto io, dico, sono un infermiere e lavoro a Modena in ospedale, volevo sapere il ministro della sanità, che è una diplomata in liceo scientifico se non erro, come penserà di poter fare le riforme per la sanità. C'è tanto da fare, secondo me ci vogliono delle persone competenti. Facciamo così Alberto, sì. ci teniamo la sua domanda in caldo per quando ospiteremo Beatrice Lorenzin, perché insomma al momento rispondere su questo diventa piuttosto difficile, ma non per eludere la risposta, è semplicemente che contano sì certamente le competenze, poi magari ci sono persone che sono ottimi ministri senza aver fatto necessariamente quegli studi, quindi quando avremo la Lorenzin gireremo la sua domanda. Sentiamo anche Franco che ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'opportunità. Io sono un proprietario di un appartamento, sto pagando un mutuo. La prima cosa che vorrei dire è che il vero proprietario della mia casa, dove io sto pagando il mutuo, è la banca. Quindi se l'IMU dovesse, la seconda rata, essere pagata, perché non farle pagare al vero proprietario, che è la banca? E poi dove trovare le risorse? Le risorse si trovano riducendo la spesa pubblica. Perché non rimodulare, visto che questa parola piace tanto ai nostri politici, rimodulare le pensioni, cioè ci sono, ci sta civiltà, la vecchia guerra tra le due generazioni, i padri e i figli. Bene, i padri sono andati in pensione con il calcolo retributivo, invece i figli col contributivo. Perché non prendere queste risorse, cioè ricalcolare la pensione del padre come quella del figlio, e poi ridurre quelle spese, quelle pensioni d'oro che sono veramente una vergogna. In un momento, io parlo in questo momento, sì, dove la gente non riesce a arrivare alla fine del mese, ci sono tante possibilità di riduzione e anche i costi della politica, ma sì, che facciano presto, facciano cose concrete, sì, perché veramente è una cosa ignobile. Sul taglio della spesa pubblica, immagino musica per le orecchie di Carlo Stagnaro, no? Sì, ancora una volta, nessuno di noi è contrario, ci mancherebbe ai tagli della spesa pubblica. Ma io non ho visto, Stagnaro, io non ho visto molto nel discorso di Letta in merito a questo. No, Letta ne ha parlato poco, però devo dire, dopo 20 anni in cui i tagli vengono promessi e non vengono fatti, se non vengono promessi ma vengono realizzati siamo tutti contenti. E approfitto per lanciare una sfida al presidente Letta. Noi viviamo in un paese dove la Confindustria chiede al governo da alcuni anni di tagliare i sussidi alle imprese e i governi e i parlamenti si ostinano a non tagliarli. Presidente Letta, per cortesia, apra il cassetto della sua scrivania dove trova il rapporto Giavazzi e lì ci sono 10 miliardi di euro di tagli. Ci fermiamo, abbiamo la viabilità. Prima però si faccia dire una cosa, Andrea Lonati che ci sta scrivendo sulla nostra pagina Facebook, è la sesta volta che scrive tassiamo la prostituzione con 4 punti esclamativi, la stanno classificando come spam, quindi la smetta, ormai l'abbiamo detta, sarà contento, ora basta. 9 in punto. Ah certo, poi c'è un altro punto sull'IMU che ci fate notare, appunto il fatto che sono soldi che devono andare anche ai comuni, e allora questo è uno degli snodi centrali, infatti sotto traccia si inizia a leggere qualcosa anche sui quotidiani in merito alla protesta dell'ANCI, sarà interessante vedere come reagirà l'associazione dei comuni che in questo momento ha il suo presidente che è Graziano Del Rio, immagino dimissionario a breve, che è un esponente di questo esecutivo, quindi il tema è particolarmente sentito dopo tutta la confusione fatta sulla Tares. Sentiamo anche Fabio da Roma, mi sembra che attendesse da un po'. Buongiorno Fabio. Sì, buongiorno, salve. Aspetta, volevo dire velocemente questo, che io non sono molto d'accordo con Stefano Feltri, che tra l'altro leggo spesso, mi piace ciò che dice. Cioè, vengo al punto, il fatto dell'IMU, io sono un impiegato, una busta paga normale, ho una casa a Roma di 80 metri quadri che pago 600 euro l'anno. A me quei 600 euro l'anno appunto pesano molto, ma pesano molto in funzione del fatto che sono già molto tartassato su altri punti. Cioè, mi spiego, insomma, un asilo voglio dire non si trova se non si paga una retta, i mezzi pubblici sono quelli che sono, gli ospedali, le visite mediche, eccetera. Insomma, alla fine a contorno di tutto questo qua ci pago anche l'IMU. Spesso viene fatto l'esempio con la Francia, no? La Francia ha una tassazione sulla casa molto alta, è vero, ma spessissimo sentiamo dire che hanno un welfare che però funziona, che scarichi dalla babysitter a tante altre cosettine. E arrivo poi alla fine, concludo, abbiamo 120 miliardi di euro l'anno di evasione fiscale, ma se andassimo soltanto lì a prendere un 3%, non un 30, un 3%, avremmo recuperato i soldi dell'IMU. Grazie Fabio. Stefano Feltri, nemmeno ti dico niente, devi solamente rispondere all'osservazione dell'ascoltatore. Ma questa è la classica cosa italiana, no? Ma perché non vanno là a prendere i soldi? Si vuole sempre che tassino qualcun altro. Ora, il nostro ascoltatore sa bene, come perché lo sanno tutti in Italia, che gli evasori fiscali possono nascondersi al fisco, ma difficilmente dormono sotto un ponte. Quindi colpire gli immobili è anche uno dei modi imperfetti, finché si vuole, che ci sono in Italia per colpire gli evasori, perché appunto gli evasori spesso hanno magari più immobili, magari intestati alla nonna, allo zio, al cugino, però sono immobili. Allora, il nostro ascoltatore che ha un appartamento di 80 metri quadri a Roma avrà tutte le difficoltà economiche del caso, ma credo che io non conosco nessuno della mia generazione che può permettersi un appartamento di 80 metri quadri a Roma. Quindi di nuovo il discorso è sempre quello, siamo tutti d'accordo che togliendo l'IMU a chi la paga si fa un favore e si aiuta anche persone che magari hanno i soldi contati. Il problema è che forse quei soldi potevano essere messi da qualche altra parte. Con 2 miliardi quanti posti negli asili nido si creano sgravando le giovani coppie da appunto da questo, dal problema di dove mettere i figli, magari permettendo a qualche milione di donne di lavorare invece che rimanere a casa, perché alla fine pagare un asilo nido e magari lavorare a partita IVA alla fine non conviene, quindi è meglio stare a casa. Ecco, bisogna fare questo tipo di ragionamenti. È chiaro che se ognuno guarda esclusivamente al proprio portafoglio, chi ha la casa e chi paga l'IMU sarà molto contento, oggi chi non ha la casa e non paga l'IMU continua a stare male come ieri e sono problemi suoi. Berlusconi aumenterà i suoi consensi, il PD no, fine. Però se si guarda la cosa appunto nel suo complesso, il ragionamento del nostro ascoltatore non regge. Franco ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Per quanto riguarda l'IMU, rapidamente, per me è meglio una rimodulazione che tenga conto anche della capacità contributiva di chi deve pagarlo, ovviamente. Ma il problema non è tanto l'IMU, che comunque è uno dei problemi che è venuto poi alla ribalta perché Berlusconi ha fatto, come al solito, la sua politica in campagna elettorale tendente a restituire addirittura quella già pagata l'altro anno. Ma il problema è le piccole imprese. Ma allora, scusate, ma lo sapete se uno va in banca a chiedere 2 lire per una piccola impresa paga di imposta sostitutiva, parlo di in mutuo cosiddetto di liquidità garantito da ipoteca come se fosse la prima casa, mi spiego? Uno va in banca, chiede 2 lire, gli levano il 3% di imposta sostitutiva, il 2% di imposta sostitutiva, 2%. Se lo stesso mutuo lo chiedi per l'acquisto della prima casa è allo 0,25, cioè su 100.000 euro lo levano 2.000 euro, per la prima casa ti levano 250 euro. E questi signori parlano di lavoro, non è finito. Quando vai a registrare la cessione d'azienda, tu che compri e stai iniziando, sei una piccola start-up, ti levano il 3%. Mi spiego, io capisco chi vende perché potrebbe realizzare la plusvalenza, ma mi spiega perché il 3% a chi inizia a lavorare, che non sta sul mercato del lavoro, non rompe le scatole a nessuno per una raccomandazione, si ingegna magari di aprire un bar, una piccola officina, compra un tassì, qualsiasi cosa, e lo mazzoliamo già siamo al 5%, ci mettiamo poi il notaio, perché pure queste cose vanno essere certificate, e ci mettiamo poi in poste la perizia del tecnico, su 100 se porta a casa 92-93 è grasso che cola, ma è giusto questo? E noi parliamo di lavoro e ripresa nel sto paese? Sì. Non ho capito chiaramente la sua posizione sull'IMU, Franco, in tutta sincerità. Perché i soldi lì possono servire da un'altra parte, perché io non credo che sono tante le piccole aziende, le piccole start-up che vanno a chiedere i soldi in banca perché magari ci hanno avuto la fortuna di farsi la casa prima, hanno perso lavoro e adesso se vanno messi in proprio. Rimodulata. Secondo lei va rimodulata. Grazie. Sentiamo anche Antonio dalla provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io la mia domanda era, siccome è mezz'ora che aspetto. Allora, la mia domanda era solo questa, era legata alla riforma Fornero. Cosa ne pensa questo governo? Non mi sembra, Carlo Stagnaro, che ci sia moltissimo anche nel discorso programmatico di Letta ieri sul tema. Mi scusi Antonio, un attimo, a quale riforma Fornero si riferiva? A quella delle pensioni o a quella del lavoro? A quella delle pensioni. Ah, a quella delle pensioni, pensavo. No, perché lì in 448 hanno fatto la svelta a fare la riforma delle pensioni. Invece andare a trovare i soldi dove dovrebbero e potrebbero andare a trovarli, ci devono lavorare. Antonio, mi sembra francamente difficile, anche a fronte di vincoli europei, che si possa tornare indietro a quella riforma delle pensioni, Carlo Stagnaro, no? Sì, non solo è difficile per ragioni, come dire, contingenti, ma sarebbe anche ingiusto e sbagliato. La vita media si è allungata, grazie a Dio si allunga, e questo vuol dire che ciascuno di noi deve lavorare di più per poter maturare un capitale sufficiente a pagargli una rendita pensionistica. L'alternativa, se volessimo continuare ad andare in pensione a 58-60 anni, sarebbe pagare contributi ancora più alti, cioè far crescere ulteriormente la disoccupazione. Stefano Feltri, tu come la vedi? Beh, Letta ha parlato anche di una soluzione strutturale al problema degli esodati, che vuol dire di fatto correggere la riforma Fornero limitandone anche i benefici nel medio periodo, perché dare una soluzione strutturale a quelli che ancora sono senza coperture significa trovare altri soldi. Poi ha fatto un passaggio in cui ha parlato di revisione della legge 92, non l'ha chiamata legge Fornero per cortesia, per garbo nei confronti dell'ex ministro, ma anche lì sostanzialmente ha detto di voler smontare la riforma Fornero sul lavoro, perché i vincoli posti ai contratti precari, come ha denunciato spesso anche il Sole 24 Ore, stanno creando semplicemente nuovi disoccupati e non nuovi lavoratori a tempo indeterminato. Quindi ha parlato il Premier, ha detto che vuole incentivare ancora l'apprendistato, che è davvero decollato, e vuole sospendere questi vincoli all'uso dei contratti flessibili durante la parentesi, speriamo sia una parentesi, dell'emergenza. Quindi il giudizio implicito che ha dato sull'operato del ministro Fornero non è stato certo lusinghiero. Speriamo che il nuovo ministro Enrico Giovannini, che viene dall'Istat e che ha una sensibilità molto alta ai temi dell'occupazione e a questo lato della crisi, possa lasciare un'eredità migliore. Brevissimamente, Calogero dalla provincia di Pistoia, buongiorno. Breve, mi raccomando. Sì, brevissimo, guardi. Allora, io dico che l'IMU potrebbe essere anche giusta, perché in tutti i paesi del mondo civili la tassa sulla paga, si paga la tassa sulla casa, scusatelo, l'emozione. Allora, io direi l'IMU, lasciamo l'IMU, però togliamo tutte quelle tasse inique sulle bollette, addizioni regionali, addirittura IVA sulle tasse. Cioè, è questo che fa diventare insopportabile tutte. Se noi facciamo un piccolo calcolo... Calogero, dobbiamo chiudere, la ringrazio per dare anche una posizione opposta. Ci scrive Simone su Facebook: io sono favorevole all'abolizione dell'IMU, visto che probabilmente sarà l'unico provvedimento che abbatterà le tasse. Ringrazio Stefano Feltri e Carlo Stagnaro. Mi dispiace davvero di non aver avuto in onda una posizione nettamente favorevole all'abolizione dell'IMU sulla prima casa. Era Alberto Giorgetti del PDL, ex sottosegretario all'economia, che però è svanito nel nulla. Non ho capito bene se fosse in aula al Senato e quindi non poteva rispondere nonostante gli accordi di ieri. Io ringrazio come sempre tutti voi per l'ascolto. Seguiteci su Facebook, seguitemi su Twitter se credete, naturalmente. Ci sentiamo domani. Una puntata registrata, quella di domani, la dedichiamo ai lavoratori over 50, altro grandissimo problema. Grazie Carmelo Lauricella, Alessandro Marco Tulli. Ricordati! Mancano 62 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.